Cari amici, buona giornata e colgo l'occasione per augurare Shabbat Shalom in occasione di questo Erev Shabbat. Questa parasha parla molto di Kippur. Cosa c'entra Kippur adesso? Ebbene, questa è proprio la parasha che si legge anche appunto a Kippur, nella quale si descrive tutto ciò che è la funzione nel Beit HaMikdash durante la giornata del Kippur. Funzione che è effettuata quasi esclusivamente dal Kohen Gadol, il sommo sacerdote. Tutti sappiamo che Kippur viene dal termine Kappara, che significa espiazione. Quando si parla di espiazione, normalmente si parla di peccato, si parla di fare teshuva, di ritornare su una via più corretta, su un sentiero più giusto. Uno si chiede adesso cosa c'entra Kippur. Beh, è chiaro che stiamo leggendo la Torah secondo il ciclo annuale delle parashiyot della settimana, quindi non deve avere per forza un legame. Ma in realtà nulla è a caso, come sappiamo, ogni cosa può avere un motivo e anche un motivo profondo. Allora, se pensiamo un attimino al concetto di kappara, di espiazione, di fare teshuva. Nelle fonti nostre non c'è scritto che la teshuva esiste solo per il peccato. Anzi, secondo quanto scrive, per esempio, Rambam, Maimonide, nelle norme che riguardano la teshuva, il Chot Teshuva nel suo Mishneh Torah, lui scrive che la teshuvah non riguarda solamente degli atti vietati o proibiti o peccati, errori che qualcuno avrebbe potuto commettere, ma la teshuvah riguarda anche il proprio carattere. Cosa significa che la teshuvah riguarda il proprio carattere? Noi siamo abituati a sentire delle frasi come "ma io non ho fatto niente", oppure delle frasi come "ma non è colpa mia", o "sono fatto così", o "è più forte di me", e così via. E queste sono tutte delle frasi che rappresentano in realtà un tipo di togliersi la responsabilità. Quando dico che non è colpa mia, sto cercando di andar via, di non essere riconosciuto come responsabile. Quando dico che è più forte di me, quindi non sono io, è quello che è più forte di me che è a colpa. Oppure non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla significa forse ho avuto un determinato atteggiamento o un determinato pensiero o mi sono espresso in una determinata maniera, ma non ho fatto nulla. Ho solo detto, ho solo pensato, è solo un sentimento. Ma non ho fatto nulla, allora nessuno se la può prendere con me. Ebbene, questo nella visione ebraica è sbagliato. E torniamo alle parole del Rambam. Il Rambam scrive che appunto la teshuva riguarda anche il proprio carattere, e cioè ognuno di noi nasce con un determinato carattere che poi è anche ulteriormente segnato dalle varie esperienze e vicissitudini della vita. Ma noi dobbiamo prendere la responsabilità per il nostro carattere. Noi non possiamo dire siamo fatti così, non c'è nulla da fare, non è colpa nostra, no? Noi siamo qui proprio per cercare di migliorare il nostro carattere, per cercare di raffinare, per cercare di indirizzare quella che è la nostra natura senza romperla, ma bensì cercare di canalizzarla verso dei fini più elevati. Allora, qualora qualcuno dovesse avere un carattere negativo, per esempio nell'ambito dell'ira, si adira troppo, si arrabbia troppo spesso e in maniera magari violenta, bene, è vero che sei nato così, è vero che questo è il tuo carattere, ma questo non significa che non sei responsabile. non solamente delle tue azioni che metti in atto, ma anche del modo in cui ti poni. E quindi bisogna lavorare su questo, per esempio, il tratto caratteriale che abbiamo detto, se la persona esagera con la rabbia, con l'ira, deve lavorare su questo, deve cercare di tenersi calmo, deve trattenersi magari dal reagire del tutto, forse in alcune situazioni, per non cadere nuovamente nella trappola. Quindi questa è una nostra responsabilità ed è una forma di teshuva molto importante, cioè non bisogna aspettare di fare un peccato per poter fare la teshuva. Già abbiamo a disposizione alcuni aspetti del nostro stesso carattere che richiedono già una teshuva. È chiaro che il momento dell'anno in cui si mette a fuoco questo aspetto è sicuramente questo momento che stiamo vivendo adesso, che è il momento del conteggio dell'Omer, perché il conteggio dell'Omer ha molti significati, ma uno dei significati è quello proprio di approfondire la propria persona, conoscere meglio se stessi e raffinare, migliorare, fare teshuva per ciò che riguarda i nostri atteggiamenti, i nostri modi di vedere le cose. E soprattutto il nostro modo di reagire e il nostro modo di interagire con le persone che ci stanno intorno. Allora, se qualcuno ci dicesse: guarda che tu dovresti migliorare, alla luce di quanto detto, non bisogna offendersi. Che vuol dire devo migliorare? Non vado bene così come sono? Certo che vai bene, ma migliorare significa che c'è sempre spazio per essere migliore rispetto a quello che si è. Nessuno, tutti sono d'accordo che nessuno è perfetto e di conseguenza, se non siamo perfetti, dobbiamo migliorare. Quindi non è un'offesa. Migliorare è un invito alla crescita. Questa crescita avviene soprattutto nell'ambiente più naturale, più quotidiano, più comune nel quale ci troviamo. Spesso quando pensiamo di miglioramento a livello di anima, di carattere, pensiamo a grandi cose, grandi situazioni importanti, eccetera. Questo è un errore perché ci allontana dalla realtà. La cosa più importante è mettere a fuoco la semplice realtà nella quale ci si trova e cercare di migliorare i rapporti in quell'ambiente lì. Questo richiede umiltà, perché bisogna ammettere i propri limiti, quindi richiede molta umiltà, e poi il miglioramento, partendo dall'umiltà, richiede anche un tipo di, chiamiamola pulizia dell'anima. L'umiltà richiede uno svuotamento del proprio io dalla propria realtà, cioè non ci sono solamente io, non sono io che riempio tutta la stanza quando entro in un ambiente. Questa pulizia fa parte del conteggio dell'Omer, fa parte dei preparativi per ricevere la Torah e soprattutto è qualcosa che ci rende migliori, che ci aiuta a crescere. La pulizia può avvenire anche leggendo un po' di salmi con il cuore, anche se c'è qualche lacrima, non nuoce, perché questo ci apre. E dal momento in cui siamo aperti, siamo più umili, possiamo crescere e possiamo soprattutto migliorare. Ed ecco il legame con la teshuva. Cosa è teshuva se non questo tipo di miglioramento? Quindi auguro uno Shabbat Shalom, un buon conteggio dell'Omer e una buona Teshuvah.